Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. minuti e 44 secondi in questo esatto istante, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun luogo è lontano. I saluti ve li porgo anche da parte della squadra di quest'anno: Margherita Ina, Gianni Rosini, Emanuele Brignoli, e in regia c'è Roberta, ma ho già dimenticato il cognome, quindi abbiate pazienza, Frisani, eccola. Ve lo dirò nuovamente a fine trasmissione. La missione di questo programma di Nessun luogo lontano è raccontarvi storie, storie che vengono anche da luoghi apparentemente lontani, ma che hanno ripercussioni e riverberi anche nella vita quotidiana di oggi. Piccole storie, ma grandi movimenti geopolitici, e sono quelli da cui partiamo in questa prima puntata della stagione di Nessun luogo è lontano, per cui vi porto in Turchia. شنت المقاتلات التركية مساء اليوم غارات جديدة على القواعد الخلفية لمقاتلي حزب العمال الكردستاني. Gün bugündür. Gün dayanışma günüdür. Gün omuz omuza verme günüdür. Bu çağrılarımıza kulak tıkayan siyasi partiler de dahil olmak üzere bu çağrılara olumlu yaklaşan siyasi partilerle birlikte yeniden herkesin bir değerlendirme. E la voce che sentite è quella del premier turco Davutoglu, che dava notizia dell'intensificarsi dei raid aerei turchi. Sono due i bersagli fondamentalmente. Uno, diciamo che è appetibile, perché era da un po' di tempo che si attendeva una possibile mossa della Turchia contro l'ISIS, qualche alleato cercava di strattonare per la giacchetta Erdogan, insomma sono partiti i primi raid contro l'ISIS, e l'altra invece però sono le postazioni del PKK. Ufficialmente il governo turco dice che sta colpendo il PKK in Iraq, in realtà invece fonti curde siriane dicono che sono stati colpiti anche obiettivi in territorio siriano. E la settimana in Turchia è stata una settimana, quella trascorsa, veramente caldissima, perché lo ricorderete, il 21 luglio l'attacco terroristico a Suruç, cittadina sul confine turco, con 32 morti. Il giorno dopo la ritorsione del gruppo PKK dopo questo massacro, anche se ufficialmente era stato rivendicato appunto da ISIS. Da lì in poi la tensione si è fatta più alta. Il 25 luglio il PKK ha dichiarato concluso il cessate il fuoco, che durava da 2 anni almeno con Ankara, e il martedì, domani quindi, ci sarà una riunione d'emergenza della NATO per discutere eventuali operazioni militari appunto intraprese da Ankara, e martedì, quindi domani, a Bruxelles si incontreranno i vertici NATO per capire se vi sarà un cappello della NATO in qualche modo su queste operazioni. Quindi prima pagina di Nessun luogo è lontano dedicata interamente alla Turchia. Io vi ricordo le coordinate per commentare o porre domande a me o più ragionevolmente ai miei ospiti: 349-238-6666 per gli sms, la pagina Facebook è Nessun luogo è lontano trattino radio 24, oppure la mia personale, Giampaolo Musumeci. Twitter, se siete coincisi, potete commentare e lanciare suggestioni cinguettando a Giampaz, oppure Nessun luogo 24. Allora, siccome si muove il risico militare, si muove l'apparato militare turco, chi meglio di Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa, può illuminarci su quello che sta accadendo e su cosa sta facendo Ankara? Gianandrea, buongiorno, ben ritrovato a Nessun luogo lontano dopo un annetto che non ci sentiamo. Grazie, buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori. Ma dalle notizie che emergono da diversi fronti, anche dalle fonti curde, quello che sta facendo la Turchia è un attacco con forze aeree e con l'artiglieria su posizioni di frontiera, colpendo le basi santuari del PKK in Iraq, quelle che non venivano colpite più dal 2011, poi dal 2013, tu l'hai ricordato, c'era una tregua in atto, e ci sono incursioni in territorio siriano. L'obiettivo di facciata è lo Stato Islamico, anche se per ora pare che dall'ISIS siano stati colpiti alcuni checkpoint in un numero limitato di incursioni, ma soprattutto sono le posizioni dei curdi siriani, il Partito Democratico Curdo, che è, diciamo, la branca autonomista siriana, curdo-siriana, che però è strettamente legato al PKK. Non ci dimentichiamo che nella battaglia epica di tutto il popolo curdo, quella di Kobane, combattuta contro lo Stato Islamico nei mesi scorsi, abbiamo visto miliziani curdi siriani affiancati da curdi che venivano dall'Iraq e che la Turchia accettò di far passare dal suo territorio, ma anche da tantissimi combattenti del PKK, quindi curdi di Turchia, che affluirono a Kobane a combattere. E ricordiamo anche in quei giorni che venivano diffuse foto abbastanza emblematiche dei militari turchi che alla frontiera fraternizzavano con i miliziani dell'ISIS che controllavano quei tratti di frontiera con la Turchia. Quindi insomma qualcosa è cambiato, ma attenzione, perché Erdogan ha grossi problemi al suo interno, non ha più la maggioranza assoluta, ha difficoltà a creare un governo, e quindi insomma l'emergenza nazionale contro una serie di nemici che sono anche nemici tra loro, perché i curdi sono i peggiori avversari, i più arrabbiati contro lo Stato Islamico, può servire a Erdogan a migliorare le sue posizioni all'interno del paese. Sì. Ecco Gianandrea, poi sui risvolti interni prettamente turchi sentiremo il contributo di Alberto Tetta, che a Istanbul, giornalista esperto di cose turche, vive nel paese da parecchio tempo. Torniamo però all'aspetto più prettamente militare. Sì. Quanto pensi che possano essere efficaci le azioni, i raid turchi contro le postazioni ISIS, ammesso e concesso che poi siano realmente raid e non solamente, come paventavi tu, raid di facciata per andare a colpire poi il nemico numero uno per Erdogan, che sono i curdi? Ma insomma, dopo un anno di incursioni della coalizione internazionale che si sono rivelati quasi del tutto inefficaci, nel senso che dopo un anno l'ISIS è ancora in molte zone all'offensiva e comunque è sopravvissuto agli attacchi della coalizione, pensare che una mezza dozzina di F-16 turchi possa fare la differenza contro lo Stato Islamico credo che sia illusorio. E d'altra parte anche la Turchia ha dichiarato di non voler impegnare truppe terrestri, ma la novità militare potrebbe essere proprio quella che sembra nata dall'accordo con gli Stati Uniti: via libera all'utilizzo della base americana di Incirlik per le operazioni contro lo Stato Islamico, e in cambio gli Stati Uniti sostengono questa no-fly zone che la Turchia da tempo vuole imporre in un tratto di frontiera lungo 90 km per una profondità di 50 in territorio siriano. È di fatto per coprire un'area che è sotto il controllo dell'ISIS oggi, ma in particolare forse per impedire che questo territorio finisca poi domani nelle mani dei curdi. E c'è da precisare che questa no-fly zone, anche se Erdogan si è rivolto all'ONU dichiarando di aver mosso le sue truppe, le sue forze militari per autodifesa, però è chiaro che una no-fly zone su un lembo di spazio aereo di territorio siriano, per avere un valore giuridico internazionale, avrà bisogno anche di una risoluzione dell'ONU e non solo dell'avallo degli Stati Uniti. Quindi in sostanza, Gianandrea, se leggo bene, la vera mossa che potrebbe cambiare le sorti della crisi siriana è questo appoggio della base militare per far partire i jet alleati, e poi da lì si vedrà. È un primo tassello, ma di per sé i raid turchi insomma poco possono contro i ben nascosti guerriglieri ISIS. Ma io credo che ci sia, che di fatto rimanga questa volontà anche della Turchia, come degli altri paesi della coalizione, che finora hanno dimostrato ben poco impegno nella guerra contro l'ISIS. È vero che in Cirli, che è più vicina al confine siriano e consentirebbe di effettuare raid a costi minori rispetto ai decolli di aerei dalle basi del Golfo in Giordania, però di fatto quello che emerge in un anno di guerra all'ISIS è che l'intera coalizione, americani per primi, hanno mostrato un impegno molto blando e del tutto insufficiente a colpire in maniera determinata e comunque decisiva in termini militari la potenza militare dello Stato Islamico. A me sembra che anche la Turchia, come altri membri della coalizione, entri in campo in maniera ambigua, e cioè da un lato dice di colpire l'ISIS, ma dall'altro crea una no-fly zone dalla quale sono banditi i velivoli del governo siriano, quindi vuole colpire Bashar Assad, e dall'altro colpisce anche i curdi, che sono in questo momento alleati di Bashar Assad contro lo Stato Islamico. E quindi aggiungiamo ambiguità turche ad ambiguità internazionali che già rendono ormai poco credibile questa coalizione che dice di voler combattere lo Stato Islamico. Peraltro in passato, ma insomma anche recentemente, la Turchia è stata accusata di appoggiare più o meno direttamente o indirettamente appunto milizie ISIS e di Jabhat al-Nusra, e quindi appunto, siccome hai detto bene, la parola chiave per cercare di comprendere quello che accade è sicuramente ambiguità. Grazie a Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa, buona giornata, buon lavoro. A voi. Allora, 349-238-6666 per i vostri commenti, suggestioni oppure domande. Grazie a chi mi dice ben tornato. Dicevo, abbiamo sentito anche Alberto Tetta, l'abbiamo preso al volo, è il caso di dirlo, perché stava pigliando un aereo da Istanbul per andare a Londra. Alberto conosce molto bene la politica interna turca. A lui ho chiesto questa mossa di Erdogan che risvolti può avere appunto nella politica interna del paese. Io penso che ci sia dietro un calcolo in prospettiva da parte di Erdogan verso possibili elezioni anticipate. E in questi giorni si sta trattando per formare, per trovare un'alleanza tra la chete di Erdogan e il principale partito d'opposizione, il Partito Repubblicano del Popolo, e per formare un governo di coalizione. Se questi tentativi non riusciranno, allora la Turchia andrà di nuovo al voto. Per aumentare i suoi consensi e tornare ad essere, a conquistare una maggioranza assoluta in Parlamento, Erdogan sta provando a giocare la carta nazionalista. Non c'è niente di meglio che un conflitto aperto con i curdi per recuperare i consensi persi dall'AKP a vantaggio del partito di ultradestra, il partito di azione nazionalista, i lupi grigi per intenderci, che recuperare quei voti che ha perso le ultime elezioni, nelle elezioni del 7 giugno. Quindi Erdogan mira con questa campagna militare, facendo leva sull'elettorato nazionalista, ad aumentare i consensi dell'AKP alle prossime, le possibili elezioni anticipate, o perlomeno comunque costruire un clima per cui si rende indispensabile un accordo, forzando il maggiore partito di opposizione, appunto il GEP, che sta trattando, usando questa situazione di emergenza. Sì. E come vedi possibile una risposta curda, nel senso che il cessate il fuoco e gli accordi, le trattative degli ultimi mesi, anni, hanno dato anche legittimazione, no? Legittimità all'intero movimento curdo. Questo rinasprirsi, no, della tensione potrebbe cambiare le carte anche dal punto di vista curdo, secondo te? Io penso che se questa campagna contro il PKK in nord Iraq, ma si parla anche di bombardamenti e azioni militari contro i curdi siriani del PYD in Siria, io credo che se questa campagna continuerà, la risposta del PKK sarà violenta. Già c'è stato un attentato a Erbakan dove sono morti due soldati, la situazione si sta facendo, lo scontro si sta facendo sempre più duro. Quindi credo che se questa campagna non terminerà in fretta, sarà molto difficile poi ritornare al tavolo del negoziato e si ritornerà alla triste normalità di un conflitto a bassa intensità fino a 3 anni fa faceva morti ogni giorno e che ha fatto dal 1984 più di 40.000 vittime, ricordiamo principalmente tra la popolazione curda. Quindi io penso che l'azione del PKK dipenda soprattutto dal grado di violenza e dalla durata di questa operazione militare del governo, per la loro intenzione, ma non solo del PKK, quindi del Partito Lavoratore del Kurdistan, della guerriglia, ma anche del Partito della Democrazia, Democratico dei Popoli, che ha legami con il PKK, ma è un partito legale, è sempre stata quella di risolvere la questione con il negoziato. se Erdogan e il governo turco continueranno a invece a perseguire l'opzione militare, sarà difficile che però la risposta del PKK sia poi di tipo pacifico. Di sicuro ci sarà una reazione di tipo militare, un'escalation del conflitto. E questa tratteggiata da Alberto Tito ovviamente è... lo scenario che nessuno di noi si augura, però forse agli occhi di noi europei questo doppio binario turco con il nemico numero uno eletto, i curdi, piuttosto che l'ISIS, risulta forse un po' difficile da comprendere. Allora sono questi momenti in cui probabilmente bisogna montare il grand'angolo, fare un passo indietro, consentitemi la metafora fotografica, per cercare di capire meglio che ruolo ha la Turchia in quello scacchiere, a cosa sta puntando, qual è l'agenda. Certo, domande difficili alle quali io non so dare risposte, allora mi soccorre Valeria Talbot, a cui do il mio benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Dottoressa Talbot, benvenuta. Grazie, buonasera. È ricercatrice responsabile del programma Mediterraneo e Medio Oriente per ISPI e esperta di Turchia. Allora, Talbot, appunto, dicevo, facciamo un passo indietro, cerchiamo di guardare con la giusta distanza quelle che sono le mosse turche. Una politica schizofrenica quella di Erdogan, no? Da un lato si è beccato le accuse di foraggiare gruppi jihadisti, dall'altro a un certo punto dà il via ai raid, ma mentre dà il via ai raid contro ISIS, nel frattempo va a colpire lo storico nemico. Ed è quasi paradossale ai nostri occhi pensare che il nemico per Ankara sia i curdi e non il vicino ISIS. Come legge questa mossa di Erdogan? È davvero schizofrenia politica o piuttosto c'è un'agenda che a noi è sconosciuta ma che Erdogan è ben presente? Come diceva lei, appunto, bisogna fare un passo indietro e guardare al fattore curdo come ad un fattore chiave, cruciale, nelle considerazioni di politica estera della Turchia, in questo caso che hanno anche degli importanti e gravi risvolti interni. L'obiettivo del governo turco in Siria in questi anni è stato quello di evitare il rafforzamento della compagine della minoranza curda siriana, evitare il loro rafforzamento e la formazione di un'autonomia curda nel nord della Siria che potesse costituire un catalizzatore per la minoranza curda di Turchia, consideriamo circa 15 milioni di persone. Quindi l'obiettivo in Turchia di Ankara è stato principalmente in Siria, scusate, è stato principalmente questo, oltre alla fine del regime di Bashar al-Assad. Erdogan più volte negli scorsi mesi ha detto che il combattere il PKK affiliato del partito curdo siriano è la priorità e l'ISIS viene in secondo piano. Quindi a questo obiettivo è stata improntata la strategia di Ankara. Oggi Ankara realizza che comunque l'ISIS c'è, l'ISIS rappresenta una minaccia, l'ISIS ha colpito sul suo territorio e la Turchia è diventata serbatoio di reclutamento per lo Stato islamico. E quindi è un nemico da combattere al pari della minaccia terroristica curda. Quindi Ankara si trova impegnata su un doppio fronte. Allora, la interrompo perché c'è una domanda di un ascoltatore che via Twitter dice: ma l'attacco curdo non fa che indebolire il governo Erdogan agli occhi della comunità internazionale? Perché, come dire, lo stupore che io mi faccio, no, di fronte ai due nemici, ma come, con l'ISIS alle porte dell'Europa, attacchi piuttosto i curdi, come fa Erdogan a presentarsi rafforzato, secondo lei, come dire, attuando minacce al nemico interno piuttosto che quello esterno, universalmente riconosciuto il grande male dell'ISIS, no? Ma oggi Erdogan si presenta come alleato meno riluttante agli occhi della comunità internazionale. Da quando è stata formata la coalizione anti-ISIS nello scorso settembre, coalizione a guida americana, la Turchia ha avuto un atteggiamento ambiguo, ha evitato di entrare attivamente nella coalizione. Oggi le cose sono cambiate, Erdogan ha cambiato strategia, ha concesso agli alleati americani l'utilizzo della base aerea di Incirlik. Sì, ne parlavamo prima. Sì. Nel sud dell'Anatolia, che è comunque rappresenta un fatto importante. Concessione appunto che era legata a una contropartita. La Turchia ha ripetutamente chiesto la concessione di una no-fly zone. Sembrerebbe che gli americani siano propensi ad accordare una parziale no-fly zone, che è alla creazione di una zona di sicurezza. La Turchia in questi anni ci ha dimostrato di essere un alleato non facilmente malleabile, un alleato con degli interessi precisi, con un'agenda precisa che non sempre ha coinciso e coincide con quella degli alleati della NATO. Chiarissimo, chiarissimo. Grazie Valeria Talbot, ricercatrice responsabile a ISPI per Mediterraneo e Medio Oriente. Buona giornata, buon lavoro. Grazie, buona giornata a voi. E al 349-238-6666 c'è chi dice Erdogan compra l'operazione, tra virgolette, compra l'operazione contro i curdi con la ridotazione contro l'ISIS, ha sempre considerato ISIS meno rilevante come minaccia. Per lui il grande nemico, sempre tra virgolette, non è lo stesso nostro, l'abbiamo appunto sottolineato, differenze chiave nei punti di vista. Sono d'accordissimo, era Lorenzo Nannetti, fra l'altro responsabile scientifico del Caffè Geopolitico, che ci ha appena scritto un SMS. Allora io adesso vorrei cambiare decisamente pagina e vorrei parlarvi dello Yemen. ...26 milioni di abitanti su una superficie poco più grande della Spagna, all'estremo sud della penisola arabica. Con 1.500 euro di PIL pro capite l'anno, lo Yemen è il paese più povero del Medio Oriente e al 155esimo posto a livello mondiale. La sua economia dipende in gran parte dal settore agricolo, che occupa più della metà della popolazione. I prodotti più importanti sono caffè, canna da zucchero, tabacco, cotone e kat, una pianta che contiene sostanze stimolanti e per questo è considerata una droga. Il comparto petrolifero rappresenta una buona parte dell'economia del paese, anche se non è a livello degli altri paesi dell'area. Nel 1990, dopo l'unificazione dei due stati del nord islamico e del sud comunista, è nata la Repubblica Unita dello Yemen. Dopo quasi 35 anni al potere, nel 2012 il presidente Ali Abdullah Saleh ha lasciato il proprio incarico ad Abd al-Rabbi Mansur Hadi, in seguito alle rivolte scoppiate durante la primavera araba del 2011. Tra i gruppi in rivolta si è maggiormente contraddistinto quello degli Houthi, sciiti zaiditi. Sostenuti dall'Iran, hanno conquistato diverse zone del paese, arrivando nei primi mesi del 2015 a conquistare il palazzo presidenziale e costringere Hadi all'esilio. La guerra in Yemen continua. Una coalizione capitanata da Arabia Saudita ed Egitto sostiene il governo centrale e combatte i ribelli sciiti, mentre i terroristi di Al-Qaeda, che controllano parte del sud, tentano di guadagnare terreno a scapito proprio degli Houthi. Lo Yemen è uno dei quattro stati al mondo dove l'emergenza umanitaria ha raggiunto il livello massimo. 1,3 milioni di sfollati, 3.500 morti e 16.800 feriti. 13 milioni di persone soffrono l'insicurezza alimentare, di cui 6 milioni a livello considerato grave. E questa sciagurata e tragica fotografia del paese sarà il cuore della seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, ma adesso è tempo di informazione finanziaria, io vi aspetto subito dopo. Nessun luogo è lontano. Allora, se è vero che Nessun Luogo Lontano, è anche vero che di Yemen in pochissimi se ne occupano, un po' perché è distante, un po' perché rifugge probabilmente anche degli interessi prettamente italiani, un po' perché è anche molto molto difficile da raccontare e recentemente anche parecchio pericoloso, perché l'avete sentito, la guerra civile ormai attanaglia il paese da almeno un anno, dinamiche anche non facili da comprendere per un occhio occidentale. Abbiamo detto emergenza umanitaria innanzitutto, cerchiamo di fotografare almeno quella. Abbiamo raggiunto Donatella Rovera, che è senior Crisis Advisor per Amnesty International. Ascoltiamolo insieme. Sono appena tornata dal Yemen, dove ho passato un mese facendo investigazioni sopra la situazione dei diritti umani, notamente crimini di guerra e altre violazioni gravi commesse da tutte le fazioni, i gruppi svariati che stanno combattendo l'uno contro l'altro in questo conflitto che dura da vari mesi. Che tipo di violazioni ha riscontrato? Le violazioni sono tante, essenzialmente il mio focus è stato tutto quanto concerne la protezione di civili, quindi civili che non hanno nulla a che vedere con la guerra ma che si trovano coinvolti perché uccisi o feriti da bombardamenti da parte della coalizione condotta dall'Arabia Saudita, questa coalizione che sostiene il governo in esilio del presidente Hadi, e allo stesso tempo anche i civili che sono che si trovano così nella linea di fuoco delle battaglie quotidiane tra le due parti che combattono quotidianamente sul terreno, quindi i sostenitori degli Houthi, degli Ansarullah, di questo movimento nordista che ha preso controllo della capitale e della gran parte del paese dalla fine dell'anno scorso, e gli altri gruppi che si oppongono agli Houthi e che combattono nelle strade di varie città e paesi senza prendersi la minima cura della popolazione civile, che è quella che oggi paga il prezzo più alto in questa guerra piuttosto dimenticata. Ecco, immagino che voi come organizzazione innanzitutto chiamate a un cessate il fuoco che era stato annunciato ma che in queste ultime ore peraltro sembra svanire in fumo, ed è il caso di dirlo perché sono ripresi i combattimenti. Amnesty International non è un'organizzazione pacifista per sé, quindi noi non chiamiamo a un cessate il fuoco, noi chiamiamo a un rispetto del diritto internazionale da parte di tutti coloro che sono coinvolti nella guerra, perché anche in tempo di guerra non tutto è permesso, ci sono delle leggi ben chiari, il diritto internazionale umanitario che serve giustamente per regolare il comportamento dei combattenti e che purtroppo in questo caso viene ignorato e violato quotidianamente. Ho letto dell'utilizzo da parte di cluster bombs da parte dell'aviazione della coalizione, dell'aviazione guidata da Riyadh. Le risulta nella sua indagine? Certo, le bombe in grappa, i cluster bombs sono stati usati varie volte, vari tipi, nel nord del paese che è stata la regione la più colpita, quella che è stata bombardata più di altrove in modo indiscriminato. Sono stati usati almeno tre tipi diversi di cluster bombs in zone abitate nei dintorni della città di Sada, che è un po' la culla del movimento Houthi ed è per questo che è stata bombardata così tanto. In un caso, per esempio, ho trovato un campo pieno di munizioni, molte di queste non esplose e quindi assolutamente pericolose, perché le cluster bomb quando non esplodono in impatto diventano poi un po' come delle mine antipersonali, pericolosissime perché piccole e quindi si interrano facilmente con il vento, la pioggia, eccetera. Infatti un bambino che ho incontrato in un ospedale, un bambino di 14 anni, aveva quasi perso il piede perché giustamente camminando nei pressi di questo luogo dove portava i suoi animali, le capre e le pecore, ha calpestato una di queste cluster submunition che è esplosa. Quindi pericolosissime, le cluster bomb sono proibite internazionalmente dal 2008. Ed è assolutamente scandaloso che le forze della coalizione le stiano usando. se dovesse, dottoressa, stilare una classifica delle, come dire, delle maggiori urgenze, nella sua indagine dove ha rilevato maggiori violazioni dei diritti umani? Al nord, la capitale Sana'a, al sud, Aden, c'è un territorio, un governatorato che, come dire, soffre maggiormente di questo conflitto? La sofferenza è grande ovunque, per esempio nel nord, nella zona Sada e i dintorni, non c'è dubbio che la zona che è stata colpita più brutalmente dai bombardamenti e quindi più svuotata. Nel sud, a Aden e nei dintorni, il problema principale era, da un lato, i diversi gruppi che combattono e che mettono la popolazione civile nel mezzo, e il problema degli aiuti umanitari che venivano bloccati soprattutto dagli Houthi, e quindi veramente non c'è regione del paese che abbia scampato questa guerra assolutamente brutale. Era un paese dove la popolazione civile era già estremamente povera, il paese più povero di tutto il Medio Oriente, e che si trova adesso per gran parte in condizioni assolutamente disperate, non soltanto perché i civili vengono feriti e uccisi, perché più di un milione sono stati costretti a abbandonare le loro case, ma anche perché la gente veramente ha problemi a trovare cibo, acqua pulita, avere accesso a cure mediche quando ne ha bisogno, quindi una situazione proprio disperata a 360 gradi. E questa era la voce di Donatella Rovera, Senior Crisis Advisor per Amnesty International, che abbiamo raggiunto negli Stati Uniti appena di ritorno dallo Yemen. Vi propongo di andare avanti nel tratteggio della situazione del paese, molto spesso, troppo spesso dimenticato dai nostri media. Abbiamo raggiunto Rim Nada, che è portavoce per il World Food Program, in particolare appunto dello Yemen. A lei abbiamo rivolto alcune domande. La prima innanzitutto era: qual è la situazione generale in Yemen dopo diverse settimane di bombardamenti? La situazione in Yemen, in tutto lo Yemen, è una situazione veramente disperata per centinaia di migliaia di persone che non hanno cibo ogni giorno. Stiamo parlando di quasi 6 milioni di persone, secondo gli ultimi report, che non hanno accesso ad assistenza esterna. E il World Food Program ha provato anche nelle scorse settimane e ha incontrato parecchie difficoltà proprio nell'approcciare il porto di Aden, siamo nel sud del paese, e quindi a Rim Nada ho chiesto quali difficoltà il programma sta incontrando per distribuire aiuti. Yes. Sì, stiamo lavorando in circostanze decisamente difficili in Yemen. Questo è dovuto a motivi di sicurezza. Ci sono molti checkpoint che rallentano e rendono difficili gli spostamenti di cibo da un posto all'altro. Recentemente abbiamo organizzato spedizioni di cibo al porto di Aden e questa è stata una svolta per la nostra assistenza nel paese. Prima di questo il World Food Program ha provato più volte ad accedere al porto di Aden, ma è stato bloccato per motivi di sicurezza. È molto insicuro per le nostre spedizioni avere l'autorizzazione per il porto. Ma recentemente il World Food Program ha organizzato diverse spedizioni, incluse due spedizioni, per il trasporto di 6.000 tonnellate di cibo, sufficiente per 400.000 persone. Questa per noi è una conquista importante, specialmente adesso che l'accesso ad Aden con le strade è praticamente impossibile, come nelle passate settimane. E questa appunto è la situazione nel sud del paese, ad Aden, ma qual è, e ho chiesto così a Rim Nada, la situazione a nord, ad esempio a Sada'a? Una situazione simile è quella di Sada, la difficoltà sulle strade è simile a Sada e anche i danneggiamenti alle infrastrutture che rallentano e complicano i trasporti via terra. Comunque noi continuiamo a inviare e distribuire cibo in tutte le aree dello Yemen e World Food Program è riuscito a inviare in questo mese cibo a sufficienza per 1,3 milioni di persone nel paese. Inoltre abbiamo anche inviato cibo a 500.000 di persone, loro hanno ricevuto distribuito fisicamente il cibo, non hanno dovuto fare niente, ma è stato distribuito dai nostri partner nel paese. Nonostante tutto, quindi, siamo in grado di fare il nostro lavoro, ma speriamo che la situazione nel paese migliori, così da poter raggiungere più persone in minor tempo. E questa è la situazione da nord a sud, da Sada ad Aden, appunto, in Yemen. Ancora Rim Nada, The World Food Program. A lei ho chiesto che cosa chiedono alla comunità internazionale, in particolare all'Arabia Saudita che guida la coalizione ai bombardamenti. Speriamo che questi paesi si alzino e ci aiutino a dare la massima assistenza in Yemen e speriamo che ci siano anche organizzazioni umanitarie che ci permettano di continuare ancora il nostro lavoro, ancora più velocemente e raggiungere più persone in minor tempo. Questa era Rim Nada, portavoce del World Food Program, il programma in particolare che si occupa di Yemen. Adesso le informazioni sul traffico, poi di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Nessun luogo è lontano. :46, ultima parte di Nessun Luogo Lontano, stiamo parlando di Yemen, questo sconosciuto, un paese di cui si parla veramente pochissimo, tra i pochi che lo raccontano. Laura Silvia Battaglia, giornalista freelance, esperta del paese. Laura, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, abbiamo fatto una fotografia che è tragica, perché a guardare i numeri l'emergenza umanitaria è quasi senza confronto, già in un paese che di suo soffre carenze alimentari e quant'altro. Però con te, Laura, vorrei che ci aiutassi a capire meglio politicamente quello che sta accadendo. Fra l'altro noi ci sentimmo esattamente un anno fa, quando gli Houthi stavano marciando su Sana'a e tu eri lì a raccontarci questo arrivo, no? del movimento dal nord. Loro lamentavano un'esclusione totale dalla vita politica, poi però la tensione è cresciuta, si è arrivati alla guerra civile. Aiutaci a comprendere che cosa sta accadendo, cosa c'è in ballo. In ballo c'è il controllo del paese, certamente un controllo del paese che gli Houthi hanno avuto sicuramente in modo deciso fino al 17 luglio, lo scorso 17 luglio, che è la data in cui la cosiddetta Popular Resistance, cioè il movimento del sud del paese separatista, insieme alle forze ufficiali del presidente Hadi, hanno ripreso il porto di Aden, e quindi, diciamo, il discorso è che le truppe degli Houthi arretrano. Questo aspetto però non è automaticamente un dato rassicurante, direi che è un dato che sicuramente ci dice che il paese probabilmente andrà più fortemente verso una guerra civile, perché gli Houthi in generale sono molto refrattari ad accordi, relazioni diplomatiche. A loro certamente interessa il controllo del territorio, interessa non perdere anche considerazioni rispetto alla popolazione, e non dobbiamo dimenticare che hanno in mano Sana'a, la capitale, l'ex capitale in questo momento, e hanno la loro roccaforte in Sada, che è al confine con l'Arabia Saudita. Quindi, se dovessimo guardare i comportamenti che hanno tenuto nel passato, intorno al 2004, quando si sono verificate queste guerre abbastanza pesanti tra il governo in carica allora e gli Houthi, certamente non sono dei campioni di diplomazia. E inoltre non dobbiamo dimenticare che quello che sta succedendo in questi giorni, nonostante ponga certamente i bombardamenti della coalizione del Golfo e in particolare ovviamente l'Arabia Saudita in una posizione di aggressore, non dobbiamo dimenticare che ci sono delle situazioni che accadono in alcune zone del paese che non sono molto chiare. Due giorni fa a Mocha, che è la località da cui viene il nome del caffè ed è il posto dove si faceva il caffè molto più prima, pregiatissimo, ora un po' meno, ma sempre pregiato, ci sono stati bombardamenti sauditi, 100 morti, 60 feriti. Però voglio sottolineare che c'è stato un lungo dibattito interno in Yemen in questo paio di giorni, perché è risultato che gli Houthi non abbiano rispettato in qualche modo una forma di tregua, ma aspettassero semplicemente che gli aerei dei sauditi sorvolassero l'area per sparare con razzi Katyusha sulla popolazione. Quindi parrebbe che questo, diciamo, eccidio sia stato causato da razzi Katyusha degli Houthi piuttosto che dei bombardamenti sauditi. Ecco, questa situazione è molto comune nel paese e direi che è certamente una situazione in cui siamo a una guerra civile molto, molto difficile, dove i civili, come si diceva prima, sono le prime assolute e inevitabili vittime. Sì. Grazie Laura intanto per questa prima fotografia. Noi ci sentiremo certamente durante queste 5 settimane di programmazione di Nessun Luogo, perché lo Yemen, lo dicevo, che tu conosci bene, è molto spesso dimenticato, ma è paese fondamentale nello scacchiere, nella paesa arabica, e quello che sta accadendo, la coalizione guidata, guarda caso, da Riyadh, appunto, ne è l'ennesima testimonianza. Intanto grazie, buona giornata e buon lavoro Laura. Grazie, grazie a voi. E Nessun Luogo Lontano è fatto anche di piccole storie, non solo i grandi scacchieri geopolitici che cerchiamo di raccontare con analisti, con giornalisti, con operatori umanitari, come abbiamo fatto nel caso turco e nel caso yemenita, ma anche è fatto di piccole storie. Storie di minatori che grattano letti di lago in cerca di latta, storie di minatori che guadagnano 15 dollari al giorno, storie di minatori che muoiono almeno una alla settimana. Questo è l'affresco dell'isola di Banka, siamo nell'Oceano Indiano, è una piccola isola dal quale però, pensate, proviene il 30% dello stagno a livello mondiale, un'intera economia che si regge su questo apparentemente poco pregiato minerale, ma che poi entra anche nella componentistica tecnologica che ciascuno di noi utilizza appunto quotidianamente. Questa piccola storia, questa piccola foto è parte di un progetto molto più grande, che è una mostra fotografica che parla del cambiamento climatico, perché l'isola di Banka, per essere sfruttata in questo modo, la mano dell'uomo l'ha stravolta, l'ha deforestata, l'ha cambiata completamente, quindi il cambiamento climatico a causa dell'uomo fa poi spostare l'uomo e provoca una serie di altre conseguenze. Questo progetto fotografico, fra i curatori vi è Matilde Gattoni, fotografa e appunto curatrice, a cui do il mio benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Matilde. Matilde Gattoni, Paolo, eccola. Eccoci. Sentite? Sì, perfettamente. Allora Matilde, la foto che stavo cercando di restituire agli ascoltatori a parole, ma come dire, c'è sempre una deficienza nel cercare di raccontare le foto, però ci piace anche provarci per radio, fa parte di un servizio, di una storia che hai fatto tu, se non erro, un anno e mezzo fa, un paio di anni fa, esatto. Che è emblematica, e però entra in questo progetto più grande che si chiama Everyday Climate Change, che è questa grande mostra fotografica. C'è il domani La Vernice qua a Milano, la galleria dell'Institut Français, Corso Magenta 63, questo per gli ascoltatori che hanno voglia di gustarsi un po' di belle foto. Raccontaci un po' meglio come nasce questa idea di raccontare per immagini il cambiamento climatico nel mondo. Allora, l'idea nasce dal fotografo americano James Wicto Delano, che ha deciso un annetto fa di creare questo Instagram feed dedicata al cambiamento climatico, si chiama Everyday Climate Change, e l'idea è di raccontare attraverso le immagini il cambiamento climatico che colpisce il mondo intero. È importante far capire che alcune azioni che vengono compiute dagli uomini nel continente americano, per esempio, hanno delle conseguenze nel continente africano. È un collettivo formato da una cinquantina di fotografi e questa mostra invece raccoglie una cinquantina di fotografie di 25 fotografi diversi che sono basati in tutti i continenti del mondo. Questo ci permette di avere delle visioni diverse, non soltanto una visione occidentale del mondo e del cambiamento climatico. Allora, lo dicevo, questa mostra verrà inaugurata domani alle 18, domani martedì 28 luglio qua a Milano, Corso Magenta 63, la galleria dell'Istituto francese, e rimarrà esposta per circa un mese, per cui insomma chi ha voglia di fare una capitina d'agosto a Milano o chi rimane in città potrà appunto vedere i lavori di 25 fotografi, fra cui appunto il lavoro di Matilde Gattoni. In estrema sintesi, Matilde, quanto costa fare un lavoro come questo? Quanto è faticoso andare a indagare una tematica così vasta e che però alla fine poi si concretizza in piccole storie? Quanto è faticoso, non in termini economici, ma quanto costoso e faticoso per un fotografo andare a catturare queste storie? Prima di tutto bisogna scoprirle queste storie, questa è la prima difficoltà, perché essendo basati in Occidente e facciamo delle ricerche continue, leggendo anche la stampa locale, ci permette di scoprire delle piccole storie, così, che sembrano delle piccole storie, ma in realtà hanno un collegamento molto forte con il nostro mondo e con la nostra vita quotidiana. Quindi la prima difficoltà è sicuramente quella di scoprire queste storie nascoste e poi trovare certamente un contatto locale che ci possa introdurre a questo mondo, per riuscire a guadagnarsi la fiducia, certo, delle persone che fanno questo lavoro molto spesso illegalmente, certo, e quindi non hanno forza voglia di farlo sapere al mondo intero. Certo. E poi Matilde, fammi aggiungere, la terza fatica è probabilmente allestire la mostra, che è quello che stai facendo in queste ore, per cui io ti lascio al sudato lavoro, l'appuntamento per domani alle 18, l'ho già detto. Grazie Matilde Gattoni, fotografa e curatrice di questa mostra. Buona giornata e buon lavoro Matilde. Grazie mille Giampaolo. E allora abbiamo tempo per annunciare i titoli di coda. E per ringraziare Margherita Aina, Gianni Rosini, Emanuele Brignone che hanno confezionato, Brignoli scusate, che hanno confezionato con me questa puntata. In regia, dare ritmo e musica, c'era Roberta Frisani. Ringraziare voi per essere stati all'ascolto di questa prima puntata di Nessun Luogo è Lontano. Altre storie e altri luoghi ve li racconterò domani alle ore 16. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.